Alle elezioni regionali del 2005, nella città di Livorno e provincia, è stato registrato il 70,72% dei voti a favore della coalizione del centrosinistra e di Rifondazione Comunista, mentre il centrodestra è stato accreditato del 27,97% dei voti. Questa distribuzione diciamo che riflette un andamento piuttosto costante nella storia di Livorno. Sarà per via delle industrie metalmeccaniche che ruotano intorno al porto, sarà per via del porto stesso, del gran trafficare di merci, sarà per quell'indipendenza toscana, non so, che risale fino alla medievalità. Sarà perché nel 1921 c'è nato il Partito Comunista, e se è nato lì qualche buona ragione ci sarà. Sarà per ragioni che mi sfuggono, ma è un fatto che da quelle parti ci si fa abbindolare di meno dai pifferai di turno e con buon senso di responsabilità si cerca di fare ampi segnali ai tanti che indifesi creduloni a questi pifferai van dietro. Vladimir Ilyich Ulyanov nasce nel 1870. Si laurea in legge all'Università di Pietroburgo nel 1893 e due anni dopo fonda l'Unione di lotta per l'emancipazione operaia. Alla testa di questa organizzazione nel 1896 guida imponenti scioperi che in virtù del sagace intervento delle pubbliche autorità lo trasformeranno hic et simpliciter in deportato in Siberia per tre anni che dovevano sembrare lunghi come la fame. Come ben spiega Stefano Pivato nei Nomi e la Storia, un libro che è uscito nel 99, la fortuna dei nomi ideologici, ovvero di quei nomi che vengono imposti dai genitori ai figli in omaggio a sistemi di valori consolidati e socialmente condivisi, beh, questa fortuna va fatta risalire almeno al Concilio di Trento. Roba che si è svolta tra il 1545 e il 1563, e quando, nel tentativo di opporsi alla riforma protestante, la Chiesa Cattolica emanò un catechismo che prescrisse una sorta di identificazione tra fedeli e santi modelli di virtù tramite il nome proprio. Come dire che se se i genitori battezzano il proprio figlioletto Epifanio, sarebbe come se firmassero a suo favore una polizza di assicurazione riguardo al carattere ascetico e alla riduzione prossima e ventura del figlioletto medesimo. Con la Rivoluzione Francese, tuttavia, le cose cambiano. Con la legge del 20 settembre 1792 la registrazione delle nascite passa dal parroco all'ufficiale di stato civile. E Fabre de Glantin, in materia di nomi, propone al popolo una nuova chiave ideologica, non più nomi compromessi col potere, ma nomi inneggianti, che so, alla natura, al mondo animale, al mondo vegetale. Dura poco perché già nel 1803 la Francia, diciamo così, una Francia in via di riburocratizzazione, limita per legge la scelta dei nomi, e perché nel 1815 torna ai parroci il compito di registrare le nascite. Ciò non toglie che successivamente nuove ondate di nomi ideologici sommergano i pubblici registri. Il cosiddetto risorgimento italiano è un caso, ma anche il fascismo e la resistenza al fascismo sono altri casi. Con la caduta del fascismo, dice Pivato, il vezzo sociale del nome ideologico viene meno, o meglio, viene meno il vezzo di imporre una certa tipologia di nomi ideologici, quelli connessi a quello che lui chiama la dimensione religiosa della politica, mentre si impone sempre più insinuante il vezzo di imporre altre tipologie di nomi, non meno ideologici dei primi, ma più nascostamente, quelli connessi al mondo dello spettacolo, più e meno artistico e più e meno sportivo. Nel 1928 il fascismo compie un atto di invadenza più unico che raro nei confronti del privato cittadino. Decide di passare per legge ad una bonifica dei nomi, come costituissero una specie di agropontino della semantica nazionale, e realizza, in altre parole, quella che Pivato chiama la profilassi onomastica. Allora, un tal Amerigo Ateo diventa Amerigo Olinto, la signorina Anarchia diventa Maria, Atea diventa addirittura Pia, il signor Avanti diventa Fioravante, la signora Libertaria diventa Gina, Caserio diventa Benito, Comunardo diventa Romano, Primo maggio si riduce a primo, e così via, deprivando di connotazioni più o meno remote, ma ugualmente in odor di contrarietà al regime. A Livorno, nel 1921, un bambino venne chiamato Spartaco Libero Libertario, e ciò può dare un'idea, diciamo, di quali fossero le aspettative della gente nei confronti dei partiti della sinistra. Ma costui, Spartaco Libero Libertario, una decina di anni dopo si vide appioppare dal tribunale la più socialmente tranquilla triade di Alberto Luciano Cesare. Tra il 1918 e il 1922, ovvero fino alla marcia su Roma, nel nostro paese sono stati assegnati come nome proprio 72 Lenin, con qualche variazione al femminile, come Lenina e qualche italianizzazione, come Lenino. E qualcuno di questi, figuriamoci, qualcuno di questi a Livorno non poteva mancare. Ed è qui che, stando ancora ai documenti trovati e pubblicati da Pivato, si è verificato uno dei casi di preveggenza più straordinari che mi sia mai capitato di conoscere. L'ho scoperto scorrendo tutte le lunghe liste, ed è il caso di un poveretto che, chiamato Lenin alla nascita, dal 1928 in poi, per ordine del tribunale, ha dovuto accontentarsi di farsi chiamare Enrico. Un poveretto che ha dovuto subire un mutamento di non poco conto, dal momento che, essendo nato nel 1888, al momento aveva ormai 30 anni. Un poveretto che tuttavia poteva vantare dei genitori capaci di guardare ben al di là del loro naso, genitori che la sapevano davvero lunga su come si sarebbero svolte le cose al mondo, almeno negli anni successivi più immediati. Due fatti lo confermerebbero in modo inequivocabile. Nel 1888, primo, alla nascita del bambino, Lenin aveva 18 anni ed era sconosciuto ai più. Lenin, secondo fatto da tagliare la testa a qualsiasi toro, Lenin era uno pseudonimo che, per l'appunto, Vladimir Ilyich Ulyanov si scelse nel 1901.